lui davanti, è evidente che lui penserà non gliene può fregare di meno, quindi è inutile che glielo dico. Cioè anche i nostri atteggiamenti, come dire, espressivi traducono dei messaggi che possono essere positivi o negativi, e i nostri figli, che noi ne pensiamo, elaborano tutto con una rapidità e con una velocità estrema, rispetto a noi che magari siamo un po' più lenti, no? Abbiamo un percorso più lento. Perché? Perché è una generazione diversa, e noi da questo dato dobbiamo partire, perché i loro meccanismi sono acceleratissimi, molto accelerati, quindi noi magari facciamo più fatica a stargli dietro. E allora in questo contesto la figura paterna è certamente centrale, sia per il ruolo all'interno della famiglia che per le responsabilità. Qui bisogna provare anche a fare una distinzione alla quale però non potremo dedicare molto tempo, cioè da un lato la figura paterna come termine insostituibile di riferimento, a differenza del cosiddetto esercizio della paternità. Come dire, si può esercitare la paternità senza avere il ruolo specifico di padre, ma si tratta di situazioni particolari in cui per esempio è mancato il padre, allora l'esercizio della paternità è stato svolto da qualcun altro. Questo molte volte è il caso del figlio orfano, no? Che si è trovato carente del padre in un momento della propria vita, e come dire, non può essere sostituito il ruolo, perché il padre in quanto tale, fisicamente inteso, quella persona insostituibile, può essere stata esercitata la paternità da altri, da una persona vicina, da uno zio, ma non è la stessa cosa, perché quello è un fatto variabile. Insomma, il ruolo paterno del padre biologicamente dato è certamente diverso. E anche qui però le capacità, le modalità di intervento, di incidenza da parte del padre possono essere diverse a seconda dell'età del figlio, questo è ovvio, rispetto alla prima infanzia e sino all'adolescenza, e soprattutto in quel ponte tra infanzia e adolescenza che per noi segna un momento molto complicato, molto difficile, che ovviamente è variabile sia nel tempo storicamente inteso che rispetto a ciascun figlio. Ma per esempio un fatto che certamente determina un mutamento in nostro figlio è ad esempio il passaggio dalle scuole elementari alle medie inferiori, perché questo segna un passaggio nella conformazione strutturale del figlio centrale, perché è un mondo del tutto diverso. Come dire, per noi stessi il mondo dell'elementare sembra un po' il mondo della fiaba, no? Il grembiulino, no? Alla media succede la fine del mondo. Ma che succede? Perché? Perché tra l'altro ci si trova a confrontarsi con un modello femminile che, pur avendo la stessa età fisica, biologicamente è del tutto diverso, no? Per cui, come dire, nostro figlio in qualche modo risulta recessivo in questo sistema e si trova inserito in un contesto in cui anche lui, tutta una serie di difficoltà ce l'ha, soprattutto il figlio maschio, no? Perché la figlia femmina ha una dinamica mentale del tutto diversa. E allora, mentre il rapporto ovviamente della madre col figlio è caratterizzato da quella, insomma, fisiologica relazione che si instaura fin dal concepimento, il rapporto con il padre, che nel mondo animale è solo fondamentalmente biologico, negli uomini è anche sociale e legale. E questo è per noi, come dire, il criterio differenziale tra, come dire, il codice paterno e il codice materno. Anche qui però, come dire, la interpretazione del codice paterno va fatta provando a disegnare campi di intervento distinti da quelli della madre, perché ci possono essere molteplici varianti. Ad esempio, una madre, direi che tende ad espandere la propria sfera di incidenza oltre misura, finisce per eliminare il padre. Perché? Perché in qualche modo, per ragioni non sempre facilmente comprensibili, spiegabili, avvertibili, tende a prendere tutto. Ma se prende tutto, elimina il padre. Cioè lo mette già fuori gioco con un suo atteggiamento tendenzialmente molto invasivo. E ce ne sono esempi nella pratica molto frequenti. E allora diventa un modello, diciamo, unico, che non lascia spazio ad altro. E allora il padre, che peraltro, come dire, molte volte ne vuole anche una scusa, si tira indietro. Vabbè, tanto c'è mia moglie, io mi tiro indietro in buon ordine. Questo è un grosso errore, perché deresponsabilizza noi padri, e soprattutto non contribuisce a quella crescita, diciamo, armonica tra codice materno e codice paterno, che invece per il figlio è essenziale. Questo in realtà oggi è un fattore che in alcuni casi può essere recessivo, nel momento in cui sono cambiate anche le prospettive a cui stamane si faceva riferimento a proposito dell'ambito lavorativo, no? Perché secondo un certo modello tradizionale, siccome la madre era quella che stava più a casa, evidentemente occupava gli spazi lasciati liberi dal lavoro paterno esterno. Oggi in realtà molte volte si assiste ad un fenomeno del tutto opposto. Cioè, paradossalmente, nonostante nel tempo si sia predicata la strutturale assenza del padre, oggi è un po' molte volte al contrario in alcune famiglie. Cioè, la madre è sostanzialmente assente, e il suo posto è stato completamente preso dal padre, che fa, come dire, il babbo e il mammo, che però è un altro modello distorsivo. E ovviamente lavorare sull'equilibrio di questo sistema non è facile, ovviamente fa parte di un progetto condiviso all'interno della coppia su cui si lavora giorno per giorno, ma sono, diciamo, due facce della stessa medaglia, vuol dire, sbagliata nell'impostazione. E allora anche qui bisogna evitare che si corra questo rischio, oltre ovviamente al fatto che, un po' notoriamente per deformazione, diciamo, noi stessi padri siamo portati ad essere, come dire, un po' mentalmente meno presenti nel nostro contesto familiare. Perché? Perché da un lato ci mascheriamo dietro lo schermo del lavoro. Ma io devo lavorare, ma c'ho tante cose da fare, e quindi in qualche modo devo portare avanti la famiglia, e voi non capite gli sforzi che faccio, faccio i salti mortali, e però poi in alcuni momenti chiave lui non c'è. Non solo, ma quando torna a casa, se torna in un orario, diciamo, cristiano, che molte volte io ricordo, anzi ora questo sistema è stato, come dire, smontato, perché molti miei colleghi tornavano a casa dopo le 10 di sera. E io dicevo, ma perché torni così tardi? Così trovo tutti a letto. E non mi devo occupare, perché se torno prima, una volta si è sfasciata la lavatrice, una volta si è lamentato questo, mio figlio ha preso un brutto voto a scuola. Invece torno che tutti dormono, poi domani esco presto, quindi, come dire, non sarò investito di nulla. Ma questo è un modello molto diffuso. Poi, insomma, nel luogo di lavoro è stato montato l'artifutto alle 9, quindi alle 8 e mezza bisogna andarsene tutti a casa. L'abbiamo risolto in un'altra maniera, io dico, non è detto che sia la migliore, però è così. Cioè, attenzione, perché noi padri rischiamo di auto-escluderci perché non vogliamo affrontare i problemi. Cioè, noi padri tendenzialmente, di fronte a un problema, ci defiliamo o tentiamo di defiliarci fino a quando possiamo, poi a un certo punto veniamo inchiodati di fronte alle nostre responsabilità e, solo per non stare a sentire nostra moglie, acconsentiamo, cioè, vabbè, basta che ce la finisci, così, no? E questo è un classico che però rappresenta la negazione della partecipazione del padre alle dinamiche di sviluppo del figlio, perché poi giustamente quando sarà ci verrà tutto, come dire, rinfacciato, cioè ci tornerà tutto, perché nostro figlio ci dirà, ma quando io avevo la famosa partita di pallone importantissima, tu dov'eri? Dice, al lavoro. Ma quando io avevo questo problema, tu dov'eri? Al lavoro. E allora giustamente nostro figlio ci dice, vabbè, allora stattene al lavoro, per cortesia non ti fare più presente, perché per me non sei stato un punto di riferimento nel momento in cui avevo una serie di problemi. E questo fatto purtroppo oggettivamente è difficile da smontare. Non solo, poi dico, evidentemente questo modello deve fare i conti con la famosa, il famoso discorso a tutti noto della ferita inferta dal padre, no? Dice, noi abbiamo questo ingrato compito di, diciamo, rompere, no, quel rapporto fisiologico con la madre per aprire il figlio alla vita, alla società, alla relazione, ai modelli esterni. Ma come bisogna costruirlo? E il padre mette alla prova un figlio, cioè traduce in lui la necessità che, siccome non è tutto rose e fiori, lui deve essere disposto ad affrontare anche certi sacrifici, perché nulla casca dal cielo. Ora, vero è che i nostri figli ci osservano e quindi vedono e capiscono, però molte volte noi corriamo il rischio di lasciare tutto, come dire, per come si dà nella realtà delle cose. No, diceva, ma tanto lui mi vede che sono così. E molte volte questo non basta. Sì, lui ti vede e quindi magari si rende conto, però perché non parlarne? No, perché non esplicitare questo fatto in sé evidente con un modello discorsivo? Perché? Perché in fondo i nostri figli vogliono sapere di noi, cioè sono curiosi, ma non è che a un figlio si può rispondere perché non ti fai i fatti tuoi. E perché ogni tanto scatta anche questo meccanismo, sono problemi miei, ma il figlio dice, ma tu sei mio padre, in qualche modo, come dire, se io mi debbo relazionare a te, tu perché non ti puoi relazionare a me? Poi ovviamente, come dire, il figlio potrà capire fino a un certo punto perché, però non riuscire, questo soprattutto via via che cresce la sua capacità di relazionarsi, quindi la sua qualità intellettuale nel modo di porsi, perché non si può riflettere con un proprio figlio nel momento in cui il problema si pone su questo tipo di problema, fosse anche per comunicare, sai, effettivamente abbiamo al lavoro un problema particolare e non è facile per tutta una serie di ragioni, poi non è importante che noi scendiamo nei dettagli, ma lo possiamo rendere partecipe. Ma non tanto perché lo vogliamo caricare dello stesso problema, ma perché lo possiamo condividere con lui, così come lui vuole condividere con noi le proprie esperienze. Questo ovviamente dipende dal tipo di problemi, dal tipo di età, però